Oh, la canale 23. E chi è che si sente male? Catta, nello mi. Buonasera, Gianmarino. Buonasera, so. E beppe. Ti sei ieri così giusto? Ah, e ieri tu, che ci dici? Purpo. Se si sente più nessuno, Su, ci spariti sotto. Ieri sera ne alle 7 ero, prima ero con Antonello, poi è entrato Gian Maria, poi è entrata un'altra persona, Marino, e poi una fabbassona vera, eppure c'eravamo noi alle 7. E tu che fine avevi fatto? Cazzo, ieri la domenica ero in campagna. Mi sono portato il PMR, ogni tanto chiamavo ma non mi rispondeva nessuno, manco un'anima. Il PMR però, 27, ero in campagna all'ottava. Chiamavo a Marino ogni tanto, ma non mi rispondeva nessuno. Anche a Beggio mio, no, Marino è entrato verso le 8:20 è entrato, quindi non penso che si attaccava al PMR. Ma infatti, se tanto adesso saranno magari 27, io non avevo 27, così che non potevo entrare, però me lo so portato e la tassa era accesa, nessuno. Se non si chiami oggi già sono qua. Meglio così. Ha detto cazzo, Gian Maria è sparito, boh, sarà in campagna. Pensato io. E andate. E dovrebbe entrare anche Bacchisio tra poco, perché detto che entrava alle 7 stasera. L'ho sentito sabato, sabato l'ho sentito. Per un po' dopo si è fermato per un loro amico e non l'ho sentito più. Ehi, siamo con un amico, hanno già ciappato con qualcuno. Arrivederci, ti dici. Cazzo, chiacchierato un po'. Magari chiaro che passa l'ora e dopo magari era tardi, allora no, non è tanto più. Fatele così. E adesso, oggi m'ho fatto il carrello e tutto quanto, adesso c'ho da smontare gli ammortizzatori e cambiargli i mozzi e mettere i fili nuovi e i freni e la stecca. E verrà giù pronto. Fatto, c'è senso chiuso. E cosa vuoi fare? E almeno adesso ce l'ho già pronto, ce l'ho. Più che altro, lascio così. Allora, li metto soltanto a posto gli ammortizzatori, gli vernici, le molle. Li metto e cambio i mozzi e metto a posto i freni. Ma questa che è a posto con i freni, c'è che a posto io buco. E quando sarà là? Quando è il 24 novembre. Allora c'è tempo allora. C'è tempo allora. Io ce l'ho. ho pazienza. Ci vuole pazienza, ci vuole. Sempre la pazienza, senza pazienza la questione non va bene, invece una pazienza tranquilla. È così. Non si può fare nulla. E domandare se tu sei, sai tu sei in piazza del segno? No, non ti sono andato a piazza del segno perché è successo un problema da TV e allora lo chiamare a Vittorio. Vittorio ha aperto le 9:30, infatti lui non può scendere, scende stasera. Così che sono uscito, sì, ho fatto un giro, ma sono rientrato subito alle 11 a casa. Ma solo però è. Vabbè, meglio così. Oioia, certo che andiamo bene, andiamo. Andiamo sempre bene noi, mai male. E chi dà ragione, sempre bene. Infatti, meglio così. Meglio sempre andare così. Tu uscito? No, sono uscito a prendere il carrello. Sono tornato qua e ho cominciato a sgrassare con la moletta e via. Tutto il essere così rugiabo e sopra, volevo smontarne, ho smontato dei pezzi, però li ho rimessi a posto. E adesso piano piano faccio il coso e metto a posto tutto il resto. E poi ho fatto tutti i bici, perché c'è una ruggine e ho tutti i pernicciati. Da Vennari, cioè, la sera manca la prima, seconda e terzo, siamo saliti, abbiamo messo la centralina nuova, sembrava funzionando, e se ne è andato verso le 7, sono le 8 e mezzo, non funzionava di nuovo la televisione. Fino a domani mattina l'abbiamo accesa e funzionava, perfetta. E così via, no? Perché verso la sera, verso le 6 e mezza, le 7 manca. E non si sa da che cosa è, non si sa. Adesso abbiamo fatto le prove, i segnali, c'è. Abbiamo chiamato la centralina, adesso dobbiamo vedere un po' quando manca, a spegnere direttamente il contattore del condominio, riaccendere, andare a quel vicino a vedere un po' se si ripiga un po', per sapere se in qualche appartamento c'è qualche contatto, capito? Ma invece che non c'è il televisore che lo faccia, perché anche a me sparisce. Io tolgo il cavo e lo torno a rimettere e funziona. Ma certo, infatti stasera è ritornato, abbiamo controllato i segnali quasi l'88%, c'è la RAI che rete 4, però rete 4 funziona perfettamente, 4, 5, 6, capito? Insomma la RAI, prima, secondo e terzo si blocca, i raccatti funziona, però il canale normale non funziona, adesso sta funzionando, speriamo che non si interrompa di nuovo, perché a controllare, eventualmente se succede che si spegne di nuovo, allora bisogna chiamarlo e saliamo su, cambiamo le antenne e il capo e i cavi che ci sono, capito? Davvero un po'. Però si sa dove è questo particolare, capito? No, non cambiare nulla, Giomarie. Quando te lo fa, togli da dietro il televisore, togli il capo. Stacca il coso, stacca. E poi lo torni a rimettere per se te lo fa. Tutto mi deve rifare, cazzo, è un macello, prima la scusa che prima era spento, non funzionava, abbiamo cambiato la centralina, anche l'alimentatore, sembrava funzionando bene. Dopo 2 ore che se n'è andato, si è spento di nuovo. Adesso infatti mi ha fatto così, di già provare a staccare la corrente a vedere un po' e riaccendere. A me me lo fa in soggiorno, me lo fa. Se ne vanno i 3 canali, allora stacco il capo da dietro, il televisore, lo stacco, lo aspetto 2 minuti e lo torno a rimettere. E si mette a posto. Ma è tutto il palazzo, bottone. Vabbè, è tutto il palazzo che fa quel difetto, capito? Perché io ho 2 antenne, quella centralizzata mi fa quell'effetto, quella che non è centralizzata non me lo fa, funziona perfettamente, e questo fa. Adesso sta funzionando, vediamo il pensarvi così, non si spenga. Allora c'è abbassamento di coso, c'è abbassamento di segnale, c'è. Allora vuole rinforzato il coso, vuole rinforzato. E... Ma ti si chiama, no? Smiscellatore vuole rinforzato. Smiscellatore. È la centralina nuova, è la centralina nuova. Non c'entra niente il miscelatore. L'abbiamo cambiata nuova, abbiamo messa nuova la centralina. Meglio non ci abbiamo anche il fulmine invece, vi sta facendo difetto adesso. È successo da quando è? Venerdì che ha fatto quel suono fortissimo, sembrava una bomba. Ha fatto qualche danno, qualche cosa, adesso è stata cambiata la centralina perché c'era affetta anche la figlia e allora c'è stata partita, allora abbiamo cambiata, però stava funzionando dopo e la serie invece dopo si è spenta di nuovo, non funzionava nel primo, nel secondo e nel terzo. La 7 funziona, 4, 5 funziona tutto. Mi pare che non manchi la corrente allora, che non si spenga e manchi la corrente. Ma se manca la corrente alla televisione, manca la corrente anche sul pianerotto, sulle scale del pianerotto, perché è tutto dalla centralina e dalla luce delle scale, capito? Che la luce non manca. Allora non so che ci sia qualche perdita in qualche posto. Boh, non lo so allora. Da lì chiamare e misurare con gli apparecchi, bisogna misurare. C'aveva la, come si chiama? C'aveva la cuscina, l'apparecchiatura c'aveva per misurare i segnali, tutto, capito? No, quanto a quello. C'aveva tutto, per cui era normale il segnale, capito? Non ho capito, sì, no? Vabbè. Vuol dire c'è qualche cosa che non sta funzionando bene. Deve essere fatto qualche danno, ma può essere anche come si chiama, le spartitori delle scale, dei piani, perché ogni piano c'è uno spartitore, fa un appartamento per l'altro. Che non sia qualcuno difettoso, non capisco. Quando manca a spegnere le luci e riaccendere, andare quelli vicino che non fosse oppure da me se ritorna, capito? Così mi ha detto, eventualmente dopo mi telefoni. Boh, bisogna guardare che non ci sia qualche, che non si spenga qualcosa e si riaccende dopo. Adesso vediamo un po', appena se manca, non manca, allora, è un ripso, perché se manca il primo e il secondo, magari ci sono anche due persone anziane in questo palazzo che si guardano, loro guardano la maggior parte della RAI, l'altro giorno infatti, sabato di lutto, va tutto a posto, tutto tranquillo, era andato, però la notte poi è rimarcata di nuovo e domani mattina è tornata di nuovo la televisione, funzionante. Lo fa sulla Rai, magari da quella parte lì il segnale non era buono. Cosa vuoi dire, piatto? Questo digitale fa tanti scherzi, per fare idea, è sempre digitale, che io lo gioco e il digitale ogni tanto fa brutti scherzi, da una parte si vede, dall'altra no. Infatti un bel di voi che mi ero fatti in sala non si vedi, e dall'altra parte si vedi. Poi se gli hanno aggiunto per l'antenna mia, per l'antenna centralizzata. Quando non funziona la centralizzata va giù l'antenna mia. Ma infatti io non ho problema, perché se ci manca mancare una notte, due, se per fare già altra, l'altra divisione anche altra, quella tantenne funziona, tranquillo, capito? Però rompe ugualmente perché tu magari puoi vedere il primo non puoi vedere perché il petto, capito? Sì, sì, manca, si abbassa di segnale, si abbassa. Bisogna vedere, magari non lo fa, perché mancanza di segnale, si abbassa il segnale, si abbassa, quindi la RAI non lo prende bene. Stiamo documentando, andare. Attenzione signor Bacisio, se ci si dà un colpo, se non nulla. Non da fa. Tu devi segnare da bui. Ehi, a quale chi fa, dai, a quale da fatto, grazie, che mai a essa, dai. Da essere là. Almeno non puoi entrare, almeno a saltare a essa. Anche io mi pare che è entrato a Risetti. Oh, così sta, difficile. Avanti lo fruscio. Ogni tanto ci intende un fruscio. Boh, però può entrare. Ecco preso. Certamente non la gara. Boh. Con il piano appucciato. Non lo so. Chi sa, chi non lo sa, se non è qualcuno che conosciamo, vai lontano, il segnale è basso. E voi stai a segnare. Già siamo qua. Avanti chi fischia. No? Non si può fare. Non si può acciarà, no Gio Mari. Ah? Non si può acciarà. La e già lasciamo andare i canarini, origani. E si ripiace così, boh, si ripiace a frusciacca, con i canarini deve esserci a mente. Vabbè, tanto frusciave, eh? Tanto mi piace io. Entra se vuoi entrare invece di stare sempre a fischiare. No entra. Non è a voi, è stanco, capito? Ah boh. Andare, vedere piace a fruscia. Va bene così, da. Andiamo. Attenzione signor Bacchise, se ci sei. Gio Marino, non ve. Oh, acqua è freddo, cazzo, non sarà mai, acqua è fresca. Vabbè, presto, andiamo, oh, presto. Ma chi sento, aiù, esci fuori al guscio, oh, non sarà. Non lo so, andrà così, è pure che è passata la domenica. Io domenica era champagne si stava bene, là. Anzi, mi dovevamo uscire fuori a pranzo. E invece dopo c'è il fatto mia figlia che loro stavano uscendo di campagna. Allora siamo usciti anche noi, insomma, bisogna andare, cioè, che, perché, almeno facciamo una chiacchierata, va. Ce ne siamo sempre verso le 9:30. Infatti, hai fatto bene, almeno così sei andato in campagna, ti sei messo a girare un po'. Sai che da domani abbassamento di temperature, aria fresca ci abbiamo. Già che da oggi ha potuto maestrare il burro. Infatti, aria fresca, aria fresca almeno vediamo. Se tu gatti la durendi, ma sai che cominciamo a tapparsi. Ah? E cominceremo a tapparsi. Ah. Se stavai scendendo in pantaloncini gocci, chissà che da domani no, come si apponiamo i pantaloni, no? No, io faccio anche le scorte. Dentro casa va bene. Dentro casa lo metto io. Piano piano, già a fare così bisogna fare. Dentro casa, ma fuori no, faccio anche i corti no, adesso no, adesso comincia a fare fresco, per cui, no, adesso mi sono messo anche il pantalone lungo del pigiama, che poi mangiare. Piano piano, andiamo bene. Ha detto che sta gestendo un po' caldo di freco. Tanto. Devo giamba. Una colonnina mi devo giamba. Anzi, la coppia devo bonifare forse, devo giamba tutte e due. Anzi. C'è una che sta vibrando. Le due colonnine della macchina davanti. Ah. Perché sbarrate io? Sto vibrando una. C'è un bucanari e non me lo fai. Rimetto quel canale lì e me lo fa. Quelli che mettono sulle macchine non è che sono delle buone buone, capito? Ce la compro una buona e ce la metti, insomma, ma quelle buone bisogna prendere, capito? Adesso ne smonto per vedere com'è. Se sono quelle da 10 o se sono ancora più piccole. Devo guardare e poi andare da Franco Ennas. A vedere se virà per quella macchina lì. Vabbè, no vabbè. Solo che io non le voglio a due vie. Che Twitter ce l'ho già, sulla parte in su, ma metterla a due vie non fa. Costano poco quelle colonnine, insomma. Costano poco, costano un bel puro. Adesso guardo da Franco Enna, se vedete se ce li ha quasi precise. Prova a vedere un po'. Adesso se fa buono domani ne smonto la colonnina. E vado con la colonnina smontata a vedere. Precisa. Per vedere se ce li ha precise da mettere, quasi precise. Poi vediamo. Attenzione signor Battisio! Una da va, non vedo. Un attimo. E sono qua Gian Maria. Attenzione signor Battisio! Carino! Ecco, buongiorno! Ehi, buonasera, siete? No, un po' di tanto! Ma ti ho copiato, dici Antonio, buonasera! Non sono Antonio! Salvatore, d'ore, mentre proprio chiama. Ciao, dottore, dammi un rapporto, dottore. Allora, la radio è con l'eco della pulita. Segnale 9. Ecco. E appena appena con l'eco, sì. Anche adesso? Sì. Prova a vedere, 1, 2, 3. No, c'è sempre, c'è. Sì, vabbè. E adesso? C'è sempre? Sì, c'è sempre. Sembra l'eco amplificato. E allora questo microfono, l'M300 sto utilizzando. È buono. È buonissimo. Devo provare a volarmela un po'. Non ho capito. Che prova a regolarlo. Guarda adesso. Ah, lo puoi lasciare anche così lui. Sente bene tutto quanto. Poi va bene a così, lascialo così. Ma così è meglio qua. Ehi, già si capisce tutto, è chiara la voce. Allora lascio così, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, va bene così. No, adesso cos'hai? Ho aumentato. Ho aumentato la preamplificazione. Scusa un attimo che c'ho il telefono. Piccolino. Ah ecco, forse per quello. Io bene, ci sto arrivato. 9.30 sì, 9.35 qualcosa, dai. No, va bene, ti ascolto bene. Ehi, già funziona bene ancora. Già funziona bene, va bene fra là, già sento che tengo tutto qua, ok, eventualmente magari fra 10 minuti, ok, ci sentiamo. Eventualmente ti saluto fra. Alle prossime. Ciao Giovanni, saluta in casa. Cosa ha cambiato la parte mia, la parte della mia bellissima. Ok, dai, ce la riascolta Giovanni, buona cena, buon tutto. Attenzione signor Bacchisio! Giovanni! Oh signor Bacchisio! Hello. Hola. Hello. Chi va là? Chi va là? E chi è? Il più forte. Mette mai la chiusura. Meglio stare che mai. Ah, chi su sì. Andiamo via, andiamo. Meglio c'è il bacchino. Allora, ho acceso per un po'. C'è qualche duro, adesso non c'è nessuno. No, c'ero sino alle 7.25, poi non mi ricordo chi c'era, chi era a cosa, che stava provando. Ho dovuto chiudere, lasciare che mi ha spiegato il telefono. Allora per la signora cane gioco giunto, ha acceso. Tutto tace. Ah? Tutto tace. Sì. No, c'era Gian Maria, c'era, sino alle 7.20. Poi è entrato coso in un momento come ti si chiama? Non ho sentito, io ho acceso un poco fa. Quando stavi chiamando io stavo inserendo il microfono. Va bene. Capito. Ma lì non si è sentito? No, non ho sentito per niente. È un bandito, quello sta giocando a calcetto nel campo di... bisogna che farà qui un poco di giovi. Andiamo, gà. No, comunque lo pallone non si balza più. Caspita. Andiamo. E beh, il casello fatelo hai. Senti giù, allerta metti, di burrasca e tutto. E poi c'è il tanto comandamento. Andiamo. Più che bene. Una perturbazione, aria fredda. Stamattina c'era freddo. Il vento di maestrale. Maestrale, già lo sai che arrivi il vento freddo, arrivi. Infatti. Ma a una certa ora poi vi raggaggio, Che io ho sotto l'usore vi raggaggio, che me lo volevo certi cose del carrello, che ho smontato dei pezzi e me li ho verniciati e li ho ripiazzati, poi certi punti ho pulito e ho verniciato. Faccio giù l'ammortizzatore, c'è un paio di mozzi e mettergli i fili nuovi e l'asta nuova. E sei a posto, pronto a partire? Pronto a andare con l'auto. Quanti anni fa, ogni 2 anni? Infatti. Allora cominciamo a far così. Bisogna farlo. Se uno vuole essere in regola e non avere problemi, bisogna farlo. Infatti. Sai dire che non devono entrare in un garrello, se ne un gommone in altro garrello. Mi si è puntato in alto e non riesci a farti rialzare. A chi alzata me? Con la punta mi si è sollevato in alto, e non riuscivo a farlo salire. Sono via gara, vuol dirlo. Io piano piano si abbassare la giura. Infatti, ti voglio abbassare proprio. Infatti, tanto quello che devo fare. Comunque sei pronto per andare a pescare, no? Io a fare la revisione, dopo che ho fatto la revisione allora si può andare. Capito. La luce sull'antenna. Perché? Così, per gusto. Sì. Stavi abbattastro. È facile. Il polo caldo ce l'hai già. Devi portare solo su il polo freddo. Sì, certo. Un polo di corrente devi portare. Non ce ne vuole corrente. Allora cosa devi arrivare? La massa. Ricordati, in antenna c'è corrente, adesso noi stiamo parlando, se tu purtroppo l'antenna ti la scossa, siamo in corrente, l'antenna è in corrente, l'apparato sta mandando corrente in antenna. Quando non fa vedi? Niente, è zitto. La corrente arriva solo quando parli. Come va? Se vuoi prendere un gusto, prendi il portatilino. Metto lì l'antenna e ci metti il dito, e schiacci la portante, e senti la scossa. Sì, quello appena sì. Però lo senti. Sai che c'hai un pezzo di piastra di rame o di ottone? No, di quello non qua no. Né rame né ottone, so. Un pezzo c'è un silapo e gli posso dare. La piastra fine mi, da... Da 10 a 15 centimetri, da una parte 10 e dall'altra 15. No, nulla di quella roba qua. Nulla, del rame, del sole, nulla. Non ne ha avuto. E se vi debba attaccarlo a fare la massa, va a caricare la statica, fatta dalla scossa da. Quale? Cosa tua? La radio tua? PMR. C'è la scossa. Allora, inverti la spina, questo fa lo stesso lavoro. Allora io la spina la metto sempre in un senso, me l'ho marcata, ci ho fatto la freccia, sempre a punto in alto. Cosa non era più scossa, non era più? No, ma non è l'apparato che mi dà la scossa, no. È il capo dell'antenna che hanno i sacchi via di agorretti. No, no. Infatti lo vorrei fare scaricare io, per quello, che così lo scarica e poi dopo non becco niente. Certo che non abbia niente, neanche se me la dia accosso. Alimentato 220, no, nell'antenna, il cavo, nella fita, con tutti, si aggira cosa. E tu ci metti la lampadina, si accende allora. Gli metti la lampadina da 12 volte e si accende. È giusto, perché arriva corrente, quindi positivo e negativo si accende. E la scarichi. Perché poi la consuma, o sempre continua. Non è che si dà la scossa e poi non ce n'è più. Ah boh! Capita che è un primo momento che la giuduca te la sa dire. Ha dato una cosa. Ah, cosa però? Dovrebbe essere dove si può, se no che viene applicata. Certo, infatti gli voglio mettere una piastra o di cosa, o di rame, di ottone, proprio per caricare. Ma se la piastra non è coperta di umidità non funziona mica. Dove? No, dentro casa stesso, dentro casa. La piastra non funziona. Se no mi dipongo un coso di sabbia, coso e ci ha fatto un gavo in mezzo. C'è un vasetto, fuori della finestra, lo fai passare nei vasetti, ci metti un po' un coso puntone e lo fai scaricare lì. Quale il fuoco? Chi era questo qua? Metti il fuoco al cavo, non ti preoccupare, ma chi? Futti dilli. Ciao Antonio, ciao, non ho capito cosa hai detto. A mettere il fuoco al cavo, ho detto, così almeno non piglia fuoco niente. Una volta che il cavo ha preso fuoco non passa più la corrente. Il sole gli dà la corrente, gli dà. Capito, gli dà la corrente, gli dà. È delicato, hai capito? Passate per il fine, buonasera a tutti lì. Buonasera Marino. Buonasera, anche a lì. Sono entrato. Ma chi era la corrente? Non sono fattore. Sì. Sai cosa c'è la banana da ieri? La punta di la banana di dopo. Sempre che me ce l'ha detto, ma ha detto. Avanti Bacchisio, buonasera. Buonasera, c'è Marino, buonasera. Ben accoppiato. Oggi sento la formulazione più chiara, ieri era un po' cupa. Ma la mente un tabello. Certo, questa è banale, ce l'hai detto, mi capito? No. Quando sei in camera, figlia ti porta un casco di banale e te lo metti in testa. Ma chi attore? A te, non attore. A me non mi piace il banale, figurati. Ma gli abiti se ti piacciono. Hai detto che non mi piace. Quanto siete maliziosi, eh? Già sei poco malizioso, avanti, ma chi? Ehi, dai. Io tra poco dovevo partire, il biglietto è quasi fatto. Va bene, Mari, vai un secondo dove ti ho detto, a vedere un po' se mi ascolti. Veloce che mi sto andando a mangiare e a prendere medicine. Bene, signori, vi saluto. Ciao a Toledo, ciao anche a Tore. Buonasera anche ad Ascoltoni, Pochizio, ho fatto in QRT. Ciao Marino, anche per te. In QRT, Pochizio, perché causa merendero. Vai, vai, prendi Tore. Ok, ok, ci sentiamo. Ciao, ciao, Bacchè, alle prossime. Antonio, io Burugiarro, ma gli stavamo già chiamando il telefono. Ci sentiamo, da. Ok, ciao a tutti. Ciao, alle prossime, ciao, alle prossime.